al mondo. Il poeta della primavera, 34esima trasmissione dedicata agli emigrati. Ottava di Pasqua, al limitare del Collio Goriziano che si specchia nel chiaro corso dell'Iudrio. Un contrasto d'amore, fermato nella villotta popolare, sfiora la casa di Lontano, in cui Pietro Zorutti aperse gli occhi alla luce del suo Friuli, del quale tutta sentì e ridisse la poesia. Come avverte un'iscrizione scoperta nel 1892, primo centenario della sua nascita, avvenuta il 27 dicembre 1792. Sfiora alberi, siepi, vigneti, la chiesetta di San Giacomo raccolta nel suo candore, vigilata da due tigli che la tradizione vuole piantati dal poeta. In quel luogo, a poca distanza dal nuovo confine, una festa che non si risolve soltanto in una scampagnata. Lo confermano i discorsi intonati all'unità della gente friulana. L'inaugurazione di un busto in bronzo al cantore della primavera. Sul Brear, nel cortile chiuso dal muro merlato e pavesato di bandierine saldate ai tralci delle viti, le danze, al ritmo di motivi che Sior Pieri sembra incoraggiare con l'indulgente sorriso. Diffusa fraternità di cuori, incantati dallo scenario delle Alpi nevate, delle colline con le fioriture, della pianura che lascia intravedere in lontananza la laguna di Grado e la torre di Aquileia. Il Friuli, qui, in una luminosa cornice di orizzonti e di colori, presenta lo spirito del poeta. Scende sugli accolti l'armonia dei suoi versi. Il mes d'avril si mette in fil, un arriete a benedete, trindule i flors, spant mil odors. Il mes d'avril si mette in fil. Con l'aprile la prima pioggia, la plovisine, un motivo che piaceva al Carducci non meno che al D'Annunzio. Il primo se lo faceva ripetere a Bologna dal cividalese Guido Podretta per sgombrare dall'animo le brume invernali, come scrive un suo discepolo. Il secondo lo rileggeva a voce alta nel silenzio del Vittoriale. Lovisine minudine, lizzerine, tu venziu, usi civine, cence tons e cence lams, e tu das di bevi ai chiams. Lo visine benedete, vin bisogne del tuo umor, val tuo umor la tiare tete, la nature va in amor. Lo visine, fine fine, lizzerine, torne presto. Torne a Tiatanus, lo visine, marcomandi, torne presto a Rinfrestianus, lo visine, mandi, mandi. Cantore della primavera per eccellenza, figlio dell'Arcadia che ha per argine la villotta popolare. Primevere morvinose, col chiapiel color di rose, corpa i prats e pesti arandis, biarzi il bocul, slarghi il flor, fas mazez e ties ghirlandis, pecoline, peplanure, esparnizze la verdure, esparnizze il bon odor. Persino l'austero Tommaseo non era avaro di lodi a questo poeta, congeniale del Porta, del Belli, del Meli, sul piano della lirica dialettale dell'Ottocento. Disavventure domestiche privarono ben presto la sua famiglia del podere della casa di Lonzano, onde ci si spiega la tristezza di un suo ritorno, cinquantenne ormai, in quel luogo beato. Su una parete della stanzetta in cui nacque, gli avvenne di scrivere a matita: «Terra natale, addio, vivrai nel pensier mio». Non altrimenti rivivevano in lui luoghi di Cividale, patria adottiva. La casa di Borgo di Ponte, la scuola dei padri somaschi. Colevi a scuole, di solito non sapevi la lezione. E il mestri mi chiazzava in genoglon e mi molava io qualche sardele. La fontana di Zuccola, legata alla dichiarazione del suo amore per la donna che doveva diventare sua moglie. Or rinfresti il pensier alla fontana di Zuccole. Alì saran trent'anni, ni ne lo sa, al zan del rosignol, a sil seren, una sera di avril sul tramontà, disei per prime volte, o ti vuoi ben. E tu nine, dal sen, tu già vari su un flor, e tu melderis par segnal d'amor, che l'amor innocente, che il flor e che il momento no torni in lui, par no, no canti in altri i rosignui. Poeta delle stagioni e del tempo, come dicono gli Strolix almanacchi, iniziati nel 1821 e continuati sino alla sua morte. Basta un verso talvolta a rendere un mondo di sensazioni. Ciale cegnot e va par ogni bene. E un distico per rendere nella sua compiutezza un momento del giorno. La lune si è bonade in tuniet di rosade. Dal settembre dorato alla vendemmia festante, dal vino assaporato nel tepore del focolare, ai conversari intorno alla fiamma crepitante. Si direbbe sempre in mezzo a noi il poeta, bonario, arguto e mesto insieme. Pieli giornadi, gnos di paradis, settembre al finis ben i siei dis. Parche sta, lui non si treme, ai acciase la vendeme. O sin tu ne stagion, che non si può spietare che ploe o fred. Un bel fuoco e vin bon, dei gran ciusei sospet e buine compagnie. Ecco i rimedi per parare le vie. Tra un sorso e l'altro di frizzante vino nuovo, l'israrità del Friul. A sentì qualchidù di rarità il Friul alle plen a martelè, ma io, che hai cognizion di antichità, veramente innunciati plui di sé. Piccoletti rosazis e ciastras, spark di tresesi, ostarie di plet, parusulis di ches di Pordenon, presut di Saint-Denis, muars di Venso. Piccolo mondo nel Friuli d'un secolo fa. Autunni abbondanti di cacciagione, nobili alla mano, preti uccellatori, cielo senza nubi. Duci sans cula gabane e lismons cula blanchete. Gire intorno un'arie sane, oh c'è arie benedete. Istantanee in due soli versi. Contite la salute predomeni, dur solis gialinazzi stant calceni. Passin gli uccei e premichi l'anciape, ma io so a spietaio sot la nape. Versi, secondo un biografo acuto, pieni di brio e leggerezza e nello stesso tempo d'una comica aria di mistero. Le sagre non hanno avuto un banditore più appassionato di lui. Nell'allegria di Bolzano per il cappellano nuovo, la rumorosa irruenza dei versi, così Bindo Chiurlo, il biografo citato, si sposa fantasiosamente al maccheronico italiano del villico, fa luogo in uno o due punti ai doppi sensi, non già raffinatezza e corruzione, ma al contrario, un modo della irrefrenabile vitalità popolare che tutto pervade. Sta per arrivare il nuovo parroco. La scena si anima, si agita. Ma qui i villani, tutti impazienti e stufi di star tanto in complimenti, sberlano e viva sbattendo le mani. E di più cortesani saltano come zuppetti, scoppiano i falconetti, scloppettano le fusette, le vecchie e le pulzette si taccano a ballar. La gobba materlossa, ballando un minuet, diventa rossa rossa, la va fora di sé. E Lucia la giarola, cucca da disperata, e benché grima e frola, vuol fare ancora la matta. E poffalanta d'oi, che razza di da voi, fusette, rocchettoni, tum tum in dei portoni, tron tron sulla panaria e coi cappelli in aria, e viva Maroè, allon scampano te, din dan, din don, din dan, con tutte e due le mani. Cessato il rumore della piazza, una parentesi settecentesca, un invito alla sua Ninine, una galanteria innocente come l'alba che rompe nel cielo. Sguglie spunte l'alve, lieve la me Ninine, impire la postine, nostra mia di Dino, dal prato alla fontane, all'imbie le pulzette, l'intimine do poete, no tu positivo, l'intimine do poete, no tu positivo, dal prato alla fontane, all'imbie le pulzette, l'intimine do poete, no tu positivo, divide il tuo poete, no tu positivo. Banditore di allegria, come abbiamo accennato, scrittore di epigrammi rivolti a correggere i costumi, presente in tutte le feste nuziali di rilievo. Gioldin il ben, quanche nu sven. Sapeva nascondere nell'intimo la propria malinconia, friulano anche in ciò. Una malinconia acuita da un'esistenza tribolata. Versi come Gioventut e Primevere risentono l'insanabile amarezza leopardiana. Ma il suo amore è per la stagione dei fiori, per le sere miti di voli e di stelle. Ciale cegnot e va par ogni vene. Stupendo endecasillabo che appartiene alla gnotte d'avril, notte d'aprile, un piccolo capolavoro. Ancora un saggio di musicalità onomatopeica. Lo scrosciare d'un temporale estivo, a rima obbligata, con un crescendo di cui si compiace anche in altri componimenti che meriterebbero citati. Cospetasso di Bio, c'è Brontolons, e c'è Lamps, e c'è Tons, da Parducci Chantons, d'Anfura Procisions, noi sore noi di mil generations, Grandonons, Grandonons, e duc cum veladons lungs in fin ai talons. Si me sed in fra lor, si dans burtons, in kings e repetons, iei ce lamps e setons. Le note ispirate alla gnotta d'avril sfiorano i luoghi a lui cari. Lonzano, Cividale, Bolzano, Gorizia e Trieste, dove contava molti ammiratori e dove la parlata friulana era in auge. Risarciscano l'oblio della sua città quando scomparve il 23 febbraio 1867. È risaputo che non ebbe accompagnatori. Solo un artigiano strappò un ramo d'alloro nell'orticello di casa Zorutti, in vicolo dello Spagnolo presso l'intendenza di finanza che lo aveva avuto impiegato per tanti anni, e lo depose sulla bara a mo' di corona. Quella casa, nella guerra recente, distrutta da una bomba di aereo. Dispersi i suoi resti mortali nella fossa comune. Ma il suo spirito vivo nel canto a ogni ritorno della primavera. Abbiamo trasmesso Friuli nel mondo. Il poeta della primavera, 34esima trasmissione dedicata agli emigrati. Testo di Chino Ermacora, musica di Arturo Zardini e musiche popolari. Hanno partecipato alla trasmissione il coro di San Lorenzo di Sedegliano, diretto da Leandro Plenizio, l'orchestra udinese, Marco Dabalà e Ottavio Valerio.